Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla iniziale di questo programma. Bene, siamo tornati in diretta, cioè in realtà lo siamo sempre qui con Zardins Magnetics, e questa era la sigla d'apertura per questo programma che è iniziato ora, andremo avanti fino alle ore 21:30, grazie comunque all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste che conduce questo programma. Siamo, come detto, in diretta anche oggi 23 ottobre 2025. Ora andiamo all'ascolto di questa band anarco-femminista punk hardcore. Loro sono le Matrak Attack ed è una band che più o meno ai confini tra Belgio e Francia, la provenienza di questa band. Noi ci andiamo all'ascolto di questo loro 12 pollici che si chiama White Male Privilege, ed è uscito nel 2019. Comunque si tratta di un LP split che hanno condiviso assieme a una band slovena che si chiamano Pact, che pure questa band slovena più o meno è divisa tra Koper e Lubiana. Comunque noi ci ascoltiamo in Matrak Attack. Sì, bentornate, bentornati all'ascolto di Zarnese Magnetics. Allora, stasera abbiamo pensato di parlare proprio di della resistenza contro la guerra al vivente, anche per presentare una iniziativa che ci sarà sabato 25 ottobre a Pordenone. Però prima di entrare proprio in merito a questa iniziativa, volevamo partire dal discorso della resistenza contadina e così prendendo come spunto proprio tutta una serie di contributi, il fatto di ciò che è successo a Verona, nei pressi di Verona, insomma, quindi la vicenda dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, e quindi questo loro gesto di come è stato definito dalle compagne della coordinamenta femminista e lesbica di Roma, questo gesto di guerra di classe che hanno compiuto, e sì, partire proprio da qui e così dare un po' di, insomma, dare spazio anche a delle riflessioni varie. Beh, intanto le compagne sottolineano questa cosa, insomma, della guerra di classe, loro dicono consapevole o meno, ma comunque guerra di classe. E ricordano anche un altro fatto, un fatto che è avvenuto a Roma qualche anno fa, e cioè una vecchietta di 82 anni sfrattata dal suo appartamento, che anche lei lo aveva fatto saltare in aria e per nulla pentita di questo gesto aveva ribadito: il Signore non vi farà godere la casa, siete dei ladri. E appunto, di fronte a questi sfratti, a queste azioni super violente e super armate di questi sgomberi, insomma, che continuamente poi accadono, sempre in ottobre, all'inizio di ottobre, ad esempio, mi viene in mente che anche un uomo si è suicidato, si è gettato dalla finestra al sesto piano proprio durante lo sfratto esecutivo del suo appartamento. Allora, di fronte a questi attacchi alla povertà, diciamo, ma anche attacchi alla semplicità della vita, cioè a delle scelte, diciamo, di vita, nel momento in cui c'è la rassegnazione, le cose vanno nel dimenticatoio. Se invece appunto di fronte a gesti di disperazione come i suicidi c'è qualche momento così di qualche lacrima di coccodrillo, ma quando invece diciamo la rabbia e l'opposizione diventa fattiva, allora lì aiuto e si fanno i funerali di Stato, insomma. Ecco, su questa cosa qui, appunto, oltre a questo spunto del contributo del coordinamento femminista e lesbica, io volevo leggervi anche un altro contributo che viene da Tabor, dalle compagne e compagni di Tabor, che ricostruiscono un po' appunto la vicenda, insomma, successa il 15 ottobre, questa cascina a sud di Verona, dove decine di carabinieri hanno fatto irruzione alle 3 di mattina, in chiaramente, come si dice, ma occultati, insomma, sì, non riconoscibili, questi tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa, che erano già stati espropriati delle loro terre, caduti in miseria, e appunto adesso era la volta della casa, insomma, dopo gli espropri delle terre, dopo che avevano già comunque avvisato che avrebbero fatto saltare la casa, l'hanno fatto. Quindi il risultato è crollata, insomma, una parte dell'edificio, e quindi sono morti 3 carabinieri, ci sono stati una 30ina di feriti, e anche la sorella Maria Luisa è rimasta gravemente ferita. Tutti e 3 vengono arrestati, naturalmente. Ci dicono appunto i compagni di Tabor: titoloni, la più grande strage di carabinieri dai tempi di Nassiriya in Iraq, quindi il massimo proprio della manipolazione. Franco Ramponi era nato nel 1960, Dino nel 62, Maria Luisa nel 65. Sentite cosa ne dicono i giornali, non importa quali, sono tutti così. Erano venuti giù dalla montagna ed erano strani, come i loro genitori. I campi da coltivare, le mucche da mungere all'alba, finiva lì il mondo di questi fratelli ancora più uniti dopo la morte del padre e della madre. Una vita grama, sempre tutto virgolettato, ripetono qui. Chi vive a Castel d'Azzano addirittura sostiene che nemmeno andassero a fare la spesa, Franco, Dino e Maria Luisa. Non si erano mai rivolti al comune per chiedere aiuto, racconta la sindaca del borgo, e dopo l'eventuale sgombero avevamo proposto di assisterli in prima ospitalità in un hotel o in un Airbnb. Hanno rifiutato tutto. Questo è il tono dei commentatori, uno spaccato di vita contadina sopravvissuto alla modernità e che ha portato a questa tragedia, un attaccamento alla casa e alla terra che era diventato un'ossessione, una patologia, fino a portarli a questo gesto estremo. Avete sentito bene, difendere la propria casa e la propria terra sarebbe una patologia agli occhi del giornalista che, immaginiamo, dal suo appartamentino di Milano scende tutti i giorni a fare la spesa, mentre quei montanari sradicati e sfollati in pianura non volevano andare ospiti in un B&B e non andavano neanche a fare la spesa. Eccolo l'atavico disprezzo che il cittadino borghese moderno e sofisticato cova per il contadino, peggio ancora se montanaro, il rustico rozzo, ignorante, sporco perché legato alla terra e agli animali, un disprezzo antropologico per questi sopravvissuti alla modernità. che emerge in tutto il suo livore quando la rabbia contadina esplode, ma che rimane sotto traccia fino a quando il burino se ne sta buono e zitto a sgobbare a testa bassa per riempire gli scaffali dei loro maledetti supermercati o negozietti bio. I dettagli legali all'origine dei pignoramenti sono poco interessanti, le ragioni sono sociali e chi vive in aree montane e rurali sa bene che non sono niente di eccezionale, anzi, famiglie di agricoltori, aziende agricole, piccole imprese artigianali strozzate dai debiti e ridotte, finché ce la fanno, a lavorare per arricchire le banche, è quasi la norma. Questa è la vera tragedia, oltre al fatto che tre poveracci passeranno, temiamo, il resto dei loro giorni in galera. L'unica cosa eccezionale è il fatto che questi fratelli hanno avuto il coraggio, la lucida follia, se volete, di resistere a ogni costo, invece di suicidarsi impiccandosi in garage o lasciandosi morire di psicofarmaci e televisione, come dovrebbero fare tutti i cittadini onesti e rispettosi della legge, vero? E hanno avuto anche la sfrontatezza di tener fede alla parola data, sia al patto di non mollare mai, che a quanto pare avevano stretto tra di loro, sia alla promessa fatta pubblicamente durante il precedente tentativo di sgombero: se tornate, facciamo saltare tutto. Boom, detto, fatto. Che sorpresa, eh? Che qualcuno nella modernità possa ancora dare valore alla parola data, evidentemente qualcosa di incredibile per i nostri contemporanei, sicuramente lo è, o meglio lo era per quegli espertissimi carabinieri che sono andati a spiaccicarsi sotto le macerie della cascina. In questo senso è davvero uno spaccato di vita contadina sopravvissuto alla modernità, perché nel mondo contadino la parola data era sacra, mentre oggi non vale più niente, valgono solo distintivi e scartoffie nella modernità. Quella modernità che per affermarsi e portarci dove siamo ha espropriato, sradicato, umiliato e disgregato ogni tessuto comunitario, ogni rete di vicinato, ogni sentimento di umana solidarietà e che ha lasciato tutti isolati e disarmati davanti a un potere spietato, implacabile, burocratico e disumano, e che oggi si sorprende e piange lacrime di coccodrillo quando qualcuno sente di non avere più nulla da perdere e non prova pietà per quegli eroici servitori dello Stato che vengono nel buio della notte a sfondargli la porta per portargli via la casa dopo avergli portato via tutto il resto. Guarda un po'. Fanculo, se c'è qualcosa di sorprendente è che non succeda ogni santo giorno. Sì, rispetto a questa proposta grottesca di, che sarebbe stata fatta dall'amministrazione comunale del paese di dove vivevano appunto i fratelli Ramponi, e di andare, di essere ospitati in un B&B, non si può non dire che appunto oggi, per dire, a Bologna c'è stato questo sgombero violento da parte dell'antisommossa. Addirittura hanno buttato giù un muro per sgomberare una famiglia, perché, che era sotto sfratto, perché appunto in quella, nel loro appartamento, la ditta multiservizi, insomma l'agenzia multiservizi che aveva affittato a loro l'appartamento, doveva destinare questo appartamento a farne un B&B. Questo appunto, per parafrasare quello che hanno detto i compagni di Tabore, la modernità. Ma continuiamo a parlare appunto di resistenza contadina, andando in Palestina, perché e in Cisgiordania specificamente. Ricordiamo che il 61% del territorio della Cisgiordania è controllato da Israele. Oggi, tra l'altro, ci sono anche questi deliri ulteriori di passaggio sotto la giurisdizione di Israele di tutta la Cisgiordania. E insomma, è importante ricordare che l'agricoltura in Cisgiordania è proprio diventata una forma di lotta per la sopravvivenza, è un atto di resistenza. E gli allevatori e i contadini palestinesi devono continuamente far fronte, diciamo, ad attacchi violentissimi da parte dei coloni. Ci sono attacchi agli uliveti, posti di blocco militari che impediscono a contadini e pastori di appunto andare alle loro terre. E poi c'è il muro dell'apartheid, appunto, che blocca l'accesso ai campi, separa le località di vita dalle località delle coltivazioni. Poi ci sono le confische, le demolizioni per restituire zone militari, la privazione dell'acqua, appunto tutto questo perverso sistema di furto dell'acqua per destinarla appunto a queste coltivazioni, a queste tecniche, sì, a queste coltivazioni ottenute tramite tecniche avanzatissime da parte di Israele. E insomma, ci sono tutte queste azioni che devastano non solamente l'economia locale, comunque distruggono in maniera drastica l'economia locale della Cisgiordania, infatti tantissimi sono costretti a lavorare per Israele, ma anche, e quindi a trasferirsi in maniera forzata, ma devastano anche il patrimonio culturale palestinese. E appunto i palestinesi dicono: continuiamo a coltivare, perché l'agricoltura stessa è una dimostrazione di sopravvivenza e resistenza, e è anche un'affermazione del diritto a rimanere e anche del diritto a ritornare alla propria terra. Cioè, la terra è l'ultima ancora di salvezza di un popolo sotto attacco. Difendere la terra coltivandola è una forma di lotta nazionale. Allora, queste cose che dicono gli agricoltori e i pastori palestinesi sono importanti anche qui da noi. E per noi anche l'iniziativa che si svolgerà sabato 25 ottobre a Pordenone, appunto un'iniziativa contro gli OGM e contro l'agroindustria, l'agricoltura 4.0, e si inserisce anche in questo quadro qui di resistenza dei nativi, appunto, e di lotta contro un modello di predominio tecnologico e bellico, perché è bellico anche se non è direttamente rivolto, diciamo, alla guerra e al mettere in piedi una guerra, ma si tratta di una guerra radicale, diciamo, antropologica e materiale, e che sì, sradica, distrugge, diciamo, le condizioni materiali, cioè la cultura materiale, ma anche sradica dalle sensibilità tutta una serie di conoscenze e anche di voglia di vivere in maniera diversa, diciamo, da quella che ci viene imposta. E vabbè, ancora un po' di musica e poi entriamo più specificamente nel merito. E rimaniamo all'ascolto di questa band statunitense, esattamente dal Texas. Loro sono i DS Pills e questo è il loro album Something to Consume, uscito quest'anno. Yeah. Ecco, allora sabato 25 ottobre dalle ore 15:30 a Pordenone, in piazza Cavour, angolo via Mazzini, ci sarà un presidio contro Arsenale Bioyards e Zero Farm. E queste due start-up imprese, e hanno appunto Arsenale Bioyards e Zero Farm, hanno sede proprio a Pordenone. Arsenale Bioyards è un'azienda di biomanufacturing, cioè un sistema che utilizza biomolecole modificate geneticamente per produrre materiali commercialmente rilevanti tramite appunto l'elaborazione cellulare di sangue, alghe, funghi, microbi e batteri. Attraverso la modificazione genetica, la fermentazione mirata e l'uso dell'intelligenza artificiale, questa startup, che ha ricevuto già fior di quattrini, dichiara di voler rivoluzionare l'intero comparto manifatturiero italiano con la produzione di medicinali, alimenti sintetici, bevande e polimeri di vario tipo. Chiaramente tutta questa arroganza viene sostenuta da grandi fondi e multinazionali che si ripromettono, tramite la Fondazione di Industria e Tech, la diffusione di questi prodotti sui mercati internazionali. Si colpiva appunto uno dei manager, non so come definirli, manager che hanno in mano insomma questa startup, appunto si vantava di voler portare sì, praticamente di voler portare la natura in laboratorio, praticamente dell'importanza di portare la natura in laboratorio. E appunto parliamo di manipolazione genetica, nello specifico di TEA, cioè dei nuovi OGM, che vengono ottenuti attraverso la forbice molecolare, il CRISPR-Cas9, che è una tecnologia che riesce con estrema facilità a modificare il DNA di piante, animali, virus, batteri, eccetera. Questa forbice molecolare è stata inventata circa 10 anni fa, e questo metodo viene utilizzato in tantissimi ambiti, sia civili che militari. D'altro canto, con questo metodo si creano le armi batteriologiche, elaborate in centinaia di biolaboratori come quello cinese di Wuhan, ad esempio, disseminati in tutto il mondo questi biolaboratori, e ce n'è uno anche a Trieste che è passato da un livello 3 a un livello 4 di sicurezza recentemente. E con questa forbice molecolare si producono anche gli antidoti mRNA, i cosiddetti vaccini, e poi ci sono appunto i farmaci geneticamente modificati, e la creazione di centinaia di varietà di nuove piante OGM già brevettate dalle multinazionali del settore. Ricordiamo tra l'altro che queste il governo italiano, insomma, in deroga a ciò che è stato deciso in sede europea, ha dato il via libera alla sperimentazione in pieno campo delle nuove piante geneticamente modificate attraverso appunto le tecniche di evoluzione assistita, le TEA. Chiaramente, per fortuna, molte sperimentazioni sono andate insomma distrutte. E appunto, questa, oltre a questo Arsenale Bioyards, a Pordenone c'è anche un'altra realtà in sintonia con questa startup, cioè Zero Farms, che è un'azienda che da qualche anno produce nello stesso sito, cioè in un capannone, orticole con il metodo aeroponico, che non prevede né terreno né luce solare. Quindi Arsenale Bioyards e Zero Farms hanno questa, così, si sono alleate, diciamo, all'interno di questo capannone per costruire, per proporre questo modello di sì, di mondo di ultra tecnologico, sì, la cosa appunto, sì, ultra tecnologico e ultra artificiale. E questo, sì, diciamo, le azioni di queste imprese si inseriscono, diciamo, Sì, non meraviglia che vengano anche molto portate avanti, insomma, a livello del potere, perché si inseriscono in una si inseriscono, per come la vediamo noi, nella mobilitazione bellica mondiale, nel senso che come si diceva, attraverso questi sistemi, insomma, si porta avanti un controllo totale e anche una guerra al vivente. E, leggendo dal volantino di indizione dell'iniziativa, si fanno anche alcuni passi indietro, cioè si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. E, quindi, partendo dall'attuale decorso tecnoproduttivo, arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale, fase storica durante la quale ci fu l'applicazione a livello industriale della scoperta scientifica del ciclo degli azotati, che appunto permise agli stati belligeranti europei l'autoproduzione sia di fertilizzanti che di esplosivi derivati direttamente dal petrolio, il che potenziò l'autarchia e il prolungamento del conflitto. Abbiamo anche già parlato di questo fatto, che in pieno genocidio in questi ultimi due anni l'Italia ha esportato verso lo Stato di Israele un sacco di appunto azotati composti, insomma, arricchiti, che possono essere utilizzati, sono stati esportati in qualità di fertilizzanti, che poi ma che in realtà appunto possono essere utilizzati, sono stati utilizzati sicuramente come esplosivi, quindi anche questa aggirare, diciamo, i divieti di esportare armi e affini. E, però questo discorso del ciclo degli azotati dal dopoguerra in poi ha avuto anche altri esiti, e cioè con l'avvento di questi fertilizzanti di sintesi e l'utilizzo sempre più diffuso e sconsiderato, le attività contadine sono state progressivamente soppiantate dagli attuali sistemi agroindustriali di massa, quasi totalmente sovradeterminati dalle multinazionali sementiere. E queste multinazionali sementiere che con il susseguirsi degli anni e degli studi, delle scoperte, diciamo, ora sono in grado di produrre in laboratorio le maggiori varietà di interesse alimentare senza avere necessariamente a disposizione il seme originario. Viene in mente, ad esempio, prima si parlava di questa, delle possibili reazioni, diciamo, di fronte all'oppressione e alla distruzione e delle oppresse e degli oppressi. Appunto, si parlava di della disperazione che si può manifestare anche in forma di autodistruzione, cioè di suicidio. Ricordiamo il suicidio in massa in India, no? degli agricoltori mandati sul lastrico da Monsanto e Bayer, e che appunto hanno messo in atto queste forme di proteste estreme, suicidandosi col Roundup, con questo pesticida a base di glifosato, che appunto accompagnava, cioè era è il pesticida che va associato a queste coltivazioni, insomma, manipolate geneticamente, brevettate, alle quali i contadini indiani sono costretti a sottoporsi. Ecco, in questo caso è un suicidio, ma è un suicidio di lotta, no? Non è un suicidio di remi in barca, insomma, nel senso che appunto è una forma estrema, però che ha messo in evidenza in maniera drammatica, insomma, quello che sta succedendo. E poi dobbiamo ricordarci, a proposito appunto del discorso del seme originario, anche tornando alla Palestina, il fatto che è successo in luglio di quest'anno, appunto, un fatto paradigmatico, perché è successo lì, chissà in quanti altri posti sarà successo, comunque la distruzione da parte dell'esercito israeliano della banca del seme di Hebron in Palestina. E quindi attraverso questa distruzione tantissime piante originarie, insomma, sono state distrutte. E questa distruzione è un esempio estremo, ma rappresentativo di una tendenza che è quella appunto di annientare progressivamente i metodi di produzione alimentare tradizionali e di conseguenza l'indipendenza dei contadini e delle relative comunità di riferimento. Difatti l'agroindustria insomma propone sempre più una figura di contadino manager, di contadino, cioè neanche di contadino che non, in realtà non ha nessun rapporto con la terra, perché il modello è quello di dispositivi tecnologici che governano, addirittura stabiliscono qual è cioè il clima, la piovosità, eccetera, eccetera, quindi intervengono di conseguenza e vanno insomma ad agire sulle colture che poi sono colture di massa, diciamo, monoculture. E quindi portano avanti anche così, in questa maniera, anche col diretto, in questa maniera così anche per invogliare i giovani, diciamo, che studiano, e questa immagine, questa figura di appunto agricoltori che in realtà lavorano col computer, governano dispositivi, fanno i manager e non vanno sulla terra, quindi dei tecnocrati abominevoli, insomma, che dovrebbero coltivare la terra, cioè coltivare la terra, dovrebbero appunto praticare questa agricoltura 4.0. E appunto il coordinamento NOGM che organizza questo presidio a Pordenone sabato 25 appunto dice: contestare da parte nostra, contestare e opporci al progetto di Arsenale Bioyards e Zero Farm non è un vezzo salutistico, cioè non è che queste cose fanno male, fanno schifo, fanno male, allora noi no, anche se comunque solo l'idea di essere costretti ad alimentarsi e a curarsi con queste tecnoporcherie è una roba orribile, ma contestare e opporsi al progetto di Arsenale Bioyards e Zero Farm e in generale all'agricoltura 4.0 e all'agroindustria è una forma di resistenza contro la guerra al vivente dichiarata dal complesso scientifico militare industriale e un'irriducibile presa di posizione etica rispetto alla falsa e ridicola narrazione che solo la tecnoscienza applicata potrà salvarci dalle crisi umanitarie determinate dai cambiamenti climatici e disastri vari da lei stessa creati, cioè dalla tecnoscienza stessa. Tra l'altro in Friuli, in generale in Friuli, ma la zona del Pordenonese è molto toccata da questa, anche da questa, ad esempio dall'agrovoltaico e da questa furto di terra, diciamo, per impiantare appunto robe di questo tipo, insomma, anche legate, cioè come appunto l'agrovoltaico, con questo delirio di produzione di energia, tra l'altro tutti questi produzione di energia che è un controsenso, perché si ruba la terra, appunto si sottrae terra alla natura per produrre energia che poi viene impiegata in produzioni energivore per eccellenza, perché appunto start-up e imprese come queste che abbiamo nominato, ma tantissime, i data center ad esempio, e comunque tutti questi tipi di produzioni altamente tecnologiche sono altamente energivore e quindi sfruttano tantissima energia, hanno bisogno di tantissima energia. Difatti si parla, per questo tipo di, con questa impostazione, diciamo, viene fuori anche il discorso degli impianti piccoli nucleari, no? Cioè torna fuori il discorso dell'energia nucleare, perché ovviamente non è che bastano i pannelli fotovoltaici che poi e la devastazione che si portano dietro, no? Però in Friuli, pur essendo un territorio piccolo, c'è una tendenza negli ultimi anni, si vede una tendenza molto spinta appunto a questa distruzione del suolo per impiantare impianti di questo tipo, e quindi è importante guardarsi attorno, cioè capire anche come cambia il territorio, perché veramente te la fanno sotto il naso, insomma. Cioè, tra l'altro non servono grandi, come si dice, autorizzazioni per fare impianti di questo tipo, sono considerati, sì, cioè non ci sono delle autorizzazioni particolarmente gravose, perciò ci sono queste sì, insomma, imprese danarose che pian piano fanno tutte le loro robe, fanno tutte le pratiche, diciamo, si rivolgono all'ente locale, perciò l'ente locale dice ni, né sì né no, poi alla fine dice sì, e vanno avanti con i loro progetti, no? senza voltarsi indietro. Fanno passare un po' di tempo, così la gente si dimentica che lì in un determinato territorio c'è questo progetto di distruzione, e poi ti arrivano già con le ruspe. Quindi poi, quando arrivano con le ruspe, diciamo che l'opposizione diventa più difficile. E boh, andiamo ancora con un po' di musica, che ho parlato abbastanza. Intanto stiamo ascoltando questa band che si chiamano Lady Tornado, e più o meno gravitano tra varie cittadine dell'Emilia Romagna. Questo è comunque un album del 2009. Stop! un saluto anche da parte mia. Intanto, così ci siamo. Abbiamo superato la metà della puntata di stasera e faremo adesso un approfondimento, a meno che non ci sia qualcosa da aggiungere. O che se c'è, se c'è, sempre inseribile. Allora, dicevamo la puntata scorsa, dicevamo, avevamo iniziato un discorso sulla questione dell'antimafia. Avevamo cominciato a così un ripreso argomenti da vecchie puntate, tra l'altro dall'epoca dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, dove appunto veniva sviluppato questo ragionamento da parte di, tra l'altro, compagni anarchici di siciliani sulla critica appunto all'ideologia così soffocante e micidiale dell'antimafia. Quali erano le origini? Insomma, abbiamo visto un po' velocemente quali erano le origini di questo fenomeno, più o meno profonde. Proseguiamo stasera. Io vorrei concludere un attimo il discorso sul vero e proprio, insomma, sull'antimafia, capire quali gli sviluppi più recenti, diciamo, degli ultimi 10 anni. Arriviamo lentamente, ma ci arriviamo. Quindi l'intervento dell'antimafia sulle questioni migratorie, praticamente. E questo però in prospettiva, in una prospettiva che è quella della mobilitazione in solidarietà con tre prigionieri, con un prigioniero, diciamo, e due imputati palestinesi colpiti dalla repressione dello Stato italiano, che sono Anan, Ali e Mansour, come ben sapete, perché l'abbiamo già portato questa questione. E le due iniziative che verranno sviluppate nei prossimi giorni qui nella nostra zona sono una, diciamo, proiezione pubblica a Trieste, tutte e due le iniziative, una proiezione pubblica del documentario Colpevoli di Palestina. Questa si svolgerà a Trieste in via del Bosco 12C martedì 28 ottobre alle ore 18, a cura di Antitesi Trieste. La seconda iniziativa, due giorni dopo, giovedì 30 ottobre alle ore 10, davanti al Tribunale di Trieste, che è anche sede della Procura Antimafia e Antiterrorismo, che compete, insomma, questi territori, un presidio a cura dell'Assemblea No Leonardo, insomma, per continuare a mobilitarsi contro l'ingiusta carcerazione di Anan Yaesh, che si trova, tra l'altro, a Melfi, trasferito a centinaia di chilometri dalla sede da dove si svolge il processo. E Melfi è in Basilicata. In particolare, insomma, l'indirizzo per raggiungere, se chi vuole, con carta e penna, è via Lecce 85025 Melfi, Potenza, Anan Yaesh. Allora, quindi, stasera, tra l'altro, abbiamo parlato a lungo di resistenza contadina, bene o male, ecco, quindi i tentativi per non farsi espropriare dei, soprattutto dei saperi e delle pratiche che sono stati nostri per se non millenni, secoli, anche noi qua concretamente, insomma, i nostri bene o male avi, se non sono nonni, sono bisnonni, erano pienamente immersi nella realtà contadina, friulana, nella fattispecie, tutte cose che sono andate perse, annientate, cancellate negli anni. E chiaramente questo gesto di cancellazione dei saperi e delle pratiche è andato, insomma, sempre più intensificandosi con ed estendendosi con, diciamo, dagli anni 50 in poi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma per quanto riguarda il Friuli, insomma, non è che si è fermato negli anni 50-60, la cosa è continuata, ma non solo il Friuli. Io, ad esempio, adesso fuori programma, ricordo queste da bambino, questi telegiornali con le arance schiacciate coi bulldozer o i pomodori, eccetera, insomma, che erano le famose quote, o le quote latte famose, no? Dove c'era la comunità europea che imponeva queste diciamo, produzioni fissate, per cui anche territori super, non posso dire, dove ogni tipo di coltura prolifera letteralmente. Non so, sto pensando ad esempio, non so, anche alla Puglia, per dire, lo dico perché oggi ho un po' così, mi sono preparato sull'intervento e c'erano questioni, insomma, queste uccisioni di braccianti e di queste proteste, queste occupazioni di terre del decennio tra il 49 e il 50, no? Succedono queste stragi, questi eccidi, e uno appunto si svolge a Torre Maggiore, proprio nel Tavoliere, diciamo, in provincia di Foggia. E no, e sono andato a guardarmi, appunto, ci sono, insomma, testimonianze di queste mobilitazioni che sono continuate, non è che si sono fermate perché chiaramente la questione agraria ha perso rilevanza, no? Politicamente, dopo gli anni 50, dopo che è stata completamente industrializzata, no? L'agricoltura, e in altri territori come la Puglia, la Calabria, la Sicilia, eccetera, insomma, sono state praticamente obbligate ad emigrare, no? Come manodopera a miglior costo nelle industrie del nord. Quindi una soluzione l'hanno trovata, no? Diciamo, lo Stato e i padroni l'hanno trovata in questa maniera, no? alle lotte, alle rivendicazioni, ma volevo dire, appunto, pure continuata la cosa negli anni 80 e successivi a essere un problema con queste quote imposte, ad esempio, per mantenere i prezzi alti, no? di determinate così, produzioni. Ecco, allora ritorniamo un po' in carreggiata. Dicevo di questo discorso, da dove viene fuori il fenomeno mafioso, no? Fino, appunto, dicevo, il 1950 almeno, o a partire dall'Unità d'Italia fino al 1950, per un secolo c'è uno scontro sociale. Da una parte le masse proletarie, bene o male organizzate, no? In maniera determinata, siano socialisti o anarchici o di altro tipo, insomma, radicale, E dall'altro lato chi c'è? C'è questo gabellotto, si chiamava, ovvero sono quelle forme, figure sociali, figure, per meglio dire, non si può parlare di ceto, ecco, sociale, erano delle quelle esponenti del tessuto sociale, intendo, che andavano piano piano a prendere in affitto degli appezzamenti dal latifondista che eventualmente si spostava verso i centri di potere, no? Dalle campagne andava verso magari la capitale, Roma, no? Perché aveva più interessi là o viveva meglio. E questi gabellotti cominciavano appunto a prendere in affitto delle parti del latifondo e si arricchivano e alla fine praticamente tendevano a fare un po' da capi, no? da riferimenti, a risolvere come potevano loro, anche in maniera armata, no? Alla fine le contestazioni, le lotte, insomma, quello che era comune sentire in quell'epoca per gli sfruttati, di voler avere una vita migliore, ovvero potersi permettere anche loro di coltivare, magari anche avere più terre in comune o qualcosa appunto per sopravvivere, non, cioè, secondariamente anche per arricchirsi, ma si parla di gente che faceva la fame. Con la Seconda Guerra Mondiale, saltiamo adesso, facciamo un salto, con la Seconda Guerra Mondiale il problema della fame diventa prioritario anche per lo stato dell'Italia del Sud, diciamo, quello che aveva raggiunto l'armistizio, no, con gli alleati. E si arriva appunto a questi famosi decreti Gullo, in base ai quali Gullo era ministro dell'agricoltura, Fausto Gullo, calabrese, comunista, e aveva fatto queste ipotesi. Uno, la distribuzione, concessione ai contadini organizzati in cooperative delle terre incolte, e due era diciamo di portare la mezzadria da una ripartizione del reddito, diciamo così, dal 50% al 60%, no? 66%, cioè due terzi del reddito dell'annata, no? Due terzi andavano al conduttore e un terzo al proprietario, che oltre a essere titolare del fondo poco altro metteva a disposizione, forse pagare le tasse, ecco. E queste due proposte, anche se non passarono così come erano, insomma, furono snaturate, rivoltate da testa ai piedi dagli altri componenti, no, dagli altri ministri di quel governo, che era il governo Bonomi, lo stravolsero, diciamo, lo smorzarono in tutti i modi, però bene o male arrivò il messaggio ai contadini che i terreni incolti, anche per una questione di appunto di fame, perché c'era miseria, c'era stata la guerra, era ancora in corso, ma insomma si cominciava a ripartire, e quindi si potevano appropriare di questi terreni incolti. Ecco, due cidi di cui appunto sono rimasti questi avvengono dopo, però già in questo momento le autorità alleate sono preoccupate per la tendenza rivoluzionaria, no? Che ci sono queste proteste, queste manifestazioni, occupazioni, loro dicono, illegali della terra, eccetera. Quindi un po' concedono e soprattutto però cercano di impedire questo, no? Con la fine, con la, diciamo, col trattato di pace, con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'uscita soprattutto dei comunisti dai governi nel 47-48, il discorso appunto con Mario Scelba, tra l'altro ministro degli interni, e il discorso si fa appunto così, si tinge di rosso, nel senso che viene mandata la celera a sparare sulla gente che va in marcia. Tra l'altro appunto ci sono questi eccidi a Melissa in Calabria e Torre Maggiore, di cui dicevo prima, in provincia di Foggia, dove appunto c'erano a Melissa 14.000 contadini in marcia per la concessione delle terre incolte. Viene mandata la celere a corrergli dietro e sparano piombo, e rimangono tre contadini uccisi, due contadini e una contadina. Il stesso discorso succede quello che dice, accennavo prima, a Torre Maggiore, appunto sotto c'è un'assemblea nella Camera del Lavoro affollata di questi braccianti che portavano avanti questo discorso dell'occupazione delle terre. Non c'è posto dentro la CGIL e le persone si occupano la piazza davanti alla Camera del Lavoro. I carabinieri in questo caso invece li caricano, poi sparano, e anche qui ci sono tre morti. E praticamente appunto nel 50 poi piano piano viene sviluppato, insomma viene messo in pratica il piano Marshall, e piano piano anche le riforme, cosiddette riforme agrarie, quelle democristiane, che puntano tutto sulla diffusione della piccola proprietà, no? E da un lato, e dall'altro te ne vai, insomma, sull'emigrazione a cercare lavoro, perché appunto offerta ce n'era, no? Nell'industria dell'Italia nel nord, quindi dinamiche coloniali, ecco, dinamiche coloniali. E dove viene fuori il discorso ideologico della mafia? Proprio quando appunto la questione agricola perde rilevanza, specialmente nella sinistra ufficiale si comincia a battere su questo discorso dell'ordine, della legalità, cioè se voi braccianti, proletari, ci permettete, ci date il voto, praticamente noi vi risolviamo la cosa, vi risolviamo il problema, andando a colpire insomma questi gabellotti, no? Armati, questi mafiosi, perché i mafiosi sono una cosa separata dallo Stato. Una cosa è lo Stato, cioè anzi c'è il doppio Stato dopo, no? Queste tipo di retoriche qua. Quindi praticamente la conflittualità si abbassa, perché si fa confusione da parte del Partito Comunista, che era una forza consistente, si fa confusione intenzionalmente, rinuncia alla lotta, sfiducia tra gli oppressi, e quindi colonialismo e mafia si può dire che nascono non per qualità morali intrinseche dello spirito, no? dell'umanità del sud Italia, ma per ridurre concretamente i costi di produzione di alcuni beni necessari al capitalismo. Ecco, farei una pausa micro musicale adesso. Oh! Eccoci qua. Allora, siamo arrivati così a conclusa la parentesi, la lunga parentesi, diciamo, sulle lotte per la terra. Arriviamo, che continuano, come detto, comunque le questioni agrarie, anche se non hanno più rilevanza per determinate territori, continuano a avere una certa rilevanza. Facevo prima l'esempio, insomma, delle arance, dei pomodori distrutti, no? per le quote imposte da Bruxelles. E arriviamo nel 1990 con questa esigenza in un contesto che è quello del riflusso, no? Per cui, insomma, abbiamo già altre volte descritto ogni tipo di assalto al cielo viene messo da parte, e ogni istanza radicale viene tenuta a distanza, ci si rinchiude, ecco, nel proprio privato, diciamo, a livello generale. Primi 90 emerge questa figura del super procuratore. C'è un dibattito, a un certo punto governi Andreotti, ministro Claudio Martelli, due personaggi veramente che, come dice qui il giornalista Lorenzo D'Agostino, tutti ricordano per il loro impegno contro la mafia e soprattutto contro la corruzione. Questa figura del super procuratore, c'è un dibattito, appunto, perché ha delle caratteristiche e soprattutto dei poteri che lo rendono una figura ibrida. È mezzo magistrato ma anche mezzo poliziotto, cioè ha dei poteri di istruttoria, specialmente molto molto così drogati, virgolette, cioè potenziati, no? Sono un po' in contrasto con le teorie liberali, ecco, per dir così. Per esempio, la possibilità del super procuratore, si chiamava ancora a quel tempo la DNA, il super procuratore ha la possibilità di coinvolgere nelle inchieste, nelle indagini, scusate, i servizi segreti dello Stato, che sono un'entità dell'esecutivo, non sono del potere giudiziario, così a rigore, ecco. Tutte queste cose con gli attentati del 92, che con l'uccisione di Falcone e Borsellino, vengono cancellati completamente, cioè nessuno più osa tirar fuori la questione. Allora, nei confronti di Falcone, fino a quel momento anche la stampa progressista era stata molto critica, perché veniva visto come una figura che voleva confondere le linee di separazione tra i poteri, e veniva giudicato in maniera molto severa questo suo progetto di DNA. Tutte queste critiche spariscono completamente, vengono cancellate dalle bombe di Capaci e non se ne parla più. Quindi la DNA diventa questo Moloch potentissimo, con un potere non solo di mobilitazione proprio fisica, di controllo sui corpi, di controllo delle forze dell'ordine, ma anche con un potere fortissimo di mobilitazione simbolica, di quella lotta dei buoni contro i malvagi, del bene contro il male, di cui si parlava nell'introduzione. Poi, quando finisce la logica emergenziale degli anni 90 nella lotta alla mafia, e la mafia diventa oggettivamente non più violenta, diciamo necessariamente, o comunque con una violenza più subdola e più sottile, questa si ricicla sui reati finanziari, che a volte sono difficili da distinguere dalle dinamiche paracriminali proprie del sistema capitalista. In questo nuovo scenario la DNA deve trovarsi un lavoro per continuare a esistere, perché subentrano logiche aziendalistiche, burocratiche, in cui le istituzioni devono giustificare la propria esistenza, devono giustificare i propri budget, che diventano sempre più corposi anno dopo anno. In che modo la DNA giustifica il proprio budget? Con indagini ai sensi dell'articolo 416 del codice penale, che punisce l'associazione di tipo mafioso. Questa è un'altra delle criticità che veniva evidenziata al momento della sua approvazione. Ci si chiedeva come si potesse stabilire all'origine la natura mafiosa di un determinato reato. Infatti, la natura eventualmente mafiosa del reato dovrebbe emergere nel corso delle indagini. Il fatto che l'indagine parta come un'indagine di mafia crea una specie di pregiudizio di origine in cui determinati fenomeni vengono definiti come mafiosi a priori e poi si accumula il materiale probatorio atto a dimostrare questo teorema di partenza. Ecco, questo è il percorso che, insomma, a un certo punto le procure antimafia, dopo la fine dell'emergenza appunto delle stragi, no, del effettivo scontro tra non, come dice Travaglio, tra poteri occulti dello Stato e mafia, ma tra due entità praticamente poco, insomma, quantitativamente diverse ma qualitativamente affini, nasce l'esigenza appunto di tenere in piedi queste strutture e loro un po' si guardano in giro e si arriva al 3 ottobre 2013, la strage di bambini a Lampedusa, insomma l'affondamento di un barcone dove muoiono tantissimi profughi e dove appunto la Guardia Costiera, che è una divisione della Marina Militare, viene condannata purtroppo in prescrizione, ma viene condannata per omissione di soccorso, ma lì si comincia a fabbricare il mito nuovo, il mito del trafficante internazionale, no? Non è che ci sono gli stati che decidono a tavolino quali devono essere gli stati di serie A e di serie B per quanto riguarda l'immigrazione o i numeri appunto dell'immigrazione legalmente accettati, che è la realtà. Nasce questo mito dei trafficanti fantomatici, no? Di esseri umani senza alcuna prova concreta. Perché? Perché viene messo in piedi, ad esempio, lo vediamo lo abbiamo visto tra l'altro anche ormai, sono passati un po' di anni, abbiamo visto anche al cinema Io Capitano, no? Che è passato al festival, alla mostra del cinema di Venezia qualche anno fa, dove c'era la figura di questo ragazzo che veniva messo, insomma, alla guida del barcone e poi appunto che veniva messo così non per meriti particolari. Ovviamente quelli che organizzano i passaggi, che sono diventati illegali perché gli stati dell'Unione Europea hanno imposto agli stati africani di proibire gli spostamenti delle persone, naturalmente non sono così sciocchi da prendere il barcone e mettersi alla guida. Ovviamente mettono a disposizione questi mezzi, di fortuna chi li deve pilotare o insomma è uno che capita lì a caso. E il giornalista che dicevamo, insomma, sempre lo stesso opuscolo dell'altra settimana, Ruolo e strategie repressive della DNAA, che era un opuscolo curato dalla Cassa di Solidarietà La Lima, il giornalista, ho detto già, Lorenzo D'Agostino, e fa l'esempio anche di Agadez, che è un terminal, diciamo così, di strade che conducono dal Niger verso il Sahara, e nel 2015 quella che era un'attività di pubblica utilità, insomma organizzare le persone per spostarle verso il deserto del Sahara, diventa un'attività illegale, la stessa attività per decisioni vengono prese a Bruxelles. Quindi ecco, a catena nasce questa figura dello scafista, no? Che è praticamente il parallelo del pentito di mafia, del collaboratore di giustizia, quello che deve fare i nomi di chi lo ha messo in quel posto, in modo da liberarsi da anche condanne a livello di tipo di 30 anni, si parla, non così tanto leggere. Finché c'era Mare Nostrum, che era questa, appunto, questa operazione, questo sì, operazione di diciamo di soccorso in mare ai tempi del governo Renzi, se non sbaglio, era stata una manna per la Direzione Nazionale Antimafia, perché le navi della Marina, essendo territorio nazionale, già lì i procuratori potevano interrogare i profughi e costringerli, diciamo, cioè fare una cernita di quello che a loro sembrava il profugo più meglio manipolabile, e metterlo sotto pressione, interrogarlo e costringerlo a fargli fare i nomi di altri per mettere in piedi un'inchiesta, per poi andare, insomma, a fare retate, organizzare appunto queste operazioni mediatiche anche, no? dove l'antimafia giustifica la propria esistenza sostanzialmente. Poi adesso ci fermiamo, perché veramente siamo allo scadere, diciamo, del tempo, ma l'intervento di D'Agostino continua, è interessante anche perché prende a esaminare anche il famoso altro mito della mafia nigeriana, tra l'altro anche qua va a sviscerare proprio un'operazione di copia e incolla per costruire questo manuale, la Bibbia verde della mafia nigeriana, che praticamente è stata messa su dai poliziotti, facendo un copia e incolla dalle citazioni dal Padrino, da quei bravi ragazzi, eccetera, insomma, una roba incredibile. E ci fermiamo qui e passiamo la linea per i saluti. Ah no, un momento, ancora. Prima dei saluti della Dal Vetro, io volevo ricordare appunto i tre appuntamenti. Beh, intanto su questo discorso anche della DNA, Direzione Nazionale Antimafia, Antiterrorismo, arriveremo anche a questo, no? Cioè, ribadiremo anche il discorso di questa ulteriore introduzione nel male assoluto, cioè il terrorismo, no? Diventa appunto, dal 2016 se non sbaglio, l'antimafia diventa anche antiterrorismo, quindi questo appunto il male assoluto diventa il terrorismo, ne parliamo sempre, insomma, di questa concetto che è un lasciapassare per le forze della repressione, insomma, per fare le cose più efferate. Allora, ricordiamo le iniziative dei prossimi giorni. Sabato 25 ottobre a Pordenone, dalle ore 15:30, in piazzetta Cavour, angolo via Mazzini, presidio contro i nuovi OGM, contro l'agroindustria e specificamente di opposizione alle due imprese Arsenale Bioyards e Zero Farm. Poi abbiamo martedì 28 ottobre alle 18 a Trieste, in via del Bosco 12, la proiezione di un documentario appunto sui prigionieri politici colpevoli di Palestina, e nell'ambito appunto della mobilitazione per Anan, Yaesh, Ali e Mansour, gli altri due compagni appunto che sono imputati di associazione a scopo terroristico e dallo Stato italiano. E invece giovedì 30 ottobre dalle ore 10 sempre a Trieste davanti al tribunale, quindi Foro Ulpiano 1, che è anche tribunale dove c'è anche la sede della appunto procura antimafia, antiterrorismo, ci sarà questo presidio solidale con i prigionieri palestinesi prima citati. Per concludere, io volevo solo dire questo, che dalle sbarre delle loro prigioni, e questo è importante perché appunto ritorniamo al discorso di resistere contro la guerra al vivente, dalle sbarre delle loro prigioni i prigionieri palestinesi salutano tutti i prigionieri politici nel mondo. La lotta del movimento di liberazione dei neri in America, la lotta di tutti i popoli indigeni per l'autodeterminazione e la liberazione e tutte le forze di liberazione del mondo. E chiamano i prigionieri palestinesi a rafforzare il rapporto tra tutti questi movimenti, quindi di nativi, e tutte le comunità palestinesi in esilio e diaspora. E ci dicono: sconfiggeremo le prigioni con la fine della colonizzazione sionista in Palestina. Partecipate alle iniziative, naturalmente, e la parola alla regia. Bene, siamo proprio agli sgocciolissimi in tempi ristrettissimi. Ricordo che ovviamente avete ascoltato la trasmissione Tardis Magnetics ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30 in diretta anche oggi 23 ottobre 2025. E in modo velocissimo, se volete scriverci tramite posta elettronica, scrivete a liberetutti@autistiche.org oppure in forma cartacea, Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ecco, questi sono i nostri contatti. Questa trasmissione, anche quella delle volte scorse, potete riascoltarle nel blog tardismagneticsradio.noblogs.org. Salutiamo tutti al prossimo giovedì e anche chi ci ascolta domani sulla web radio in replica, sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questi di Anstalt, band tedesca.